nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 settembre, il sole in regione sorto alle 6.32 e tramonterà alle 19.39. Martedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Diversa tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale. Lo diciamo ormai da anni alla ripresa settembrina di Vita nei Campi. Quest'anno, a dire il vero, la trasmissione sarà un po' più diversa da quella della passata stagione, con tre nuove rubriche già da oggi. Al posto del corsivo del prof Enos Costantini, che salutiamo e ringraziamo per gli 8 anni di splendida collaborazione, abbiamo già un altro nome illustre a raccontarci le storie dei campi, Angelo Floramo, saggista, scrittore e profondo conoscitore della storia e delle tradizioni della nostra regione. Inauguriamo anche, con l'apicoltore Moreno Greatti, uno spazio dedicato al magico mondo delle api e con Roberto Barocchi, Aldo Cavani e Giorgio Valvason, tre esperti dell'universo degli alberi, faremo un lungo viaggio tra questi nostri amici cercando di capire le loro esigenze e a rispettarne un po' di più. Il pezzo di apertura di oggi con Marco Stocco è dedicato all'olivicoltura che sta passando un 2021 orribile tra problemi climatici e attacchi di parassiti. Continua la collaborazione con Marco Malison di Coldiretti per la rubrica delle normative. Oggi ci parla di Prosecco e con Raffaele Testolin che nel suo repertorio degli alberi da frutto oggi ci regala una scheda sull'asimina triloba. Immancabile è l'andamento dei mercati con il nostro Amos D'Antoni, le previsioni del tempo per la settimana entrante con i previsori dell'Osmer e il proverbio friulano della settimana. Annus horribilis, non si può definire altrimenti l'annata olivicola nella nostra regione e non solo. Cos'è successo e cosa sta succedendo? Ne parliamo con Marco Stocco, tecnico dell'ERSA che segue questo settore. Innanzitutto, problemi climatici. Sì, certamente è un'annata da dimenticare proprio per quanto riguarda l'andamento climatico durante il periodo di fioritura in cui le temperature sono state oltre i 30 gradi e di fatto ha disattivato buona parte del polline. Tuttavia non solo questo ha creato un'annata da dimenticare. Una produzione elevata nel 2020 ha creato un'alternanza con le produzioni del 2021 e dove comunque la legazione è avvenuta in maniera soddisfacente, la cimice asiatica ha interferito. Alla cimice asiatica piacciono anche le olive dunque? Sì, è un insetto molto polifago, specialmente su alcune varietà, se non adeguatamente trattata ne va a compromettere la produzione portando a una cascola precoce nell'immediata posta legazione. E come si combatte? In ambito biologico ovviamente non si possono utilizzare insetticidi di sintesi, quindi dobbiamo attuare una prevenzione affinché l'insetto non vada a ovideporre sul nostro impianto. Pertanto l'utilizzo di un'argilla chiamata caolino ha un'azione repellente e fa sì che la cimice vada a ovideporre al di fuori del nostro appezzamento. Negli oliveti invece convenzionali, durante il periodo di post allegagione, che corrisponde più o meno al trattamento che viene fatto per la tignola, un lepidottero che è presente sul territorio, un trattamento insetticida fatto in questo momento va a combattere due insetti, la cimice appunto e la tignola. Ma non tutti gli olivicoltori della nostra regione, ci diceva, hanno il patentino cosiddetto per poter acquisire questi prodotti. Sì, purtroppo molti dei nostri olivicoltori sono hobbisti e di fatto non hanno la possibilità di acquistare prodotti fitosanitari se non delle modiche quantità di rame. E per questo utilizzo magari questo canale per sollecitare tutte le persone a fare questi corsi di formazione affinché acquisiscano il patentino e possano essere in regola con i trattamenti. Su che percentuali si può valutare la perdita quest'anno di produzione e quali le zone maggiormente colpite? C'è una riduzione del 70% della produzione rispetto al 2020. Tutta la pianura udinese e anche le colline sono compromesse, la zona del Triestino anche, solo la fascia costiera dove l'olivo per ragioni climatiche legate all'anticipo della fioritura dovuto alla mitigazione del mare, ha fatto sì che fiorisse a una temperatura inferiore e questo ha determinato una buona allegazione, senza avere perdite produttive su questi impianti. Lei è stato uno dei protagonisti a Corno di Rosazzo di Olio e dintorni. Qual è il messaggio che è uscito da questo appuntamento importante per l'olio e l'olivo? Certamente in regione si producono oli di eccellenza. Il messaggio più importante è che molte volte noi spendiamo, siamo disposti a spendere molti più soldi per l'olio della macchina piuttosto che per l'olio del nostro motore. La macchina si cambia mentre il nostro motore non si cambia. Quindi un aspetto importante è appunto curare gli aspetti del nostro corpo e quindi la nostra alimentazione. Storico, medievalista, saggista, scrittore, cultore delle tradizioni della nostra regione e fine narratore delle storie che l'hanno attraversata. Possiamo così tracciare la figura di Angelo Floramo, che oggi inizia la sua collaborazione con Vita nei Campi, raccontandoci appunto le storie del mondo e della civiltà contadina. Ma sentiamo da lui le suggestioni di questo nuovo appuntamento. Il profumo dell'erba appena recisa sui prati, le stoppie che bruciano la sera sui margini dei campi, quando l'estate declina. I colori che lentamente si fondono in un'impressione che resta sospesa tra la meraviglia e lo stupore. La terra, insomma. I suoi tempi legati ai ritmi stagionali. La necessità di interagire con il calendario agricolo, l'avvicendarsi delle semine, dei raccolti, hanno modellato il carattere di una cultura profondamente contadina, quella friulana. I suoi tratti contraddistintivi si riconoscono nella tipologia degli insediamenti, nel materiale utilizzato per la costruzione delle abitazioni, nel rapporto delicato e complesso tra uomo e natura, fino alla creazione di miti, culti, riti, che di quell'interazione sono solo l'ultima e più articolata rappresentazione, assieme a tutte le altre espressioni tipiche di una cultura, come le tradizioni popolari, i giochi, l'abbigliamento, le feste, le fiere e i mercati, oppure i canti, le favole, i mestieri. O ancora, non certo da ultimo, il cibo, inteso come gastronomia tipica dal ricco profilo storico-antropologico, fortemente connotate di grande interesse per i significati di cui è portatrice. La civiltà rurale friulana è un laboratorio in divenire, i cui elementi tutti insieme permettono una lettura che suggerisce una molteplicità di significati. Questa chiacchierata domenicale andrà esplorando tanta bellezza, scandagliando l'antica pratica del fare e la sua memoria, ma anche l'habitat naturale in cui tale civiltà nei secoli si è insediata, l'uso antropologico delle risorse, i metodi tradizionali per costruire, per pescare o per cacciare, e le loro evidenze ancora presenti sul territorio, come i mulini, i forni, ma anche le taverne, le latterie sociali, luoghi di trasformazione del prodotto in cibo con valenza culturale, e ancora i tratturi per il bestiame, le mulattiere seguite dai pastori, i fiumi, come componente essenziale della civiltà contadina. Ecco, alcuni spunti per un percorso alternativo, che si prefigge di investigare la civiltà della terra, anche nella forte rappresentazione simbolica di quella cultura che l'ha generata, tecniche, sapienze condivise, rappresentazioni del mondo, gusti e sapori che ci permettono di condividere insieme una narrazione intessuta di anima e di storia. È tempo di vendemmia, in regione c'è grande fermento intorno alla DOC Prosecco. Marco Maligion, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci spiega il perché. I nostri viticoltori sanno bene che dal 2012 le superfici vitate idonee alla produzione di DOC Prosecco sono contingentate. In totale 24.450 ettari di glera, dei quali 4.530 in Friuli Venezia Giulia. Una misura restrittiva che il Consorzio di Tutela ha ritenuto necessaria per regolare l'offerta in base all'effettiva domanda del mercato e mantenere così il livello di prezzi che soddisfi contemporaneamente produttori, imbottigliatori, distributori e consumatori. La strategia sino ad oggi ha garantito un discreto equilibrio, ma quest'anno la meteorologia ha messo un po' in crisi il sistema. E quindi che cosa è successo? A causa delle gelate primaverili e di alcune importanti grandinate, che per la verità hanno interessato più il Veneto che il Friuli Venezia Giulia, si stima che quest'anno ci sarà un calo della produzione di prosecco di circa il 20%, danno che appare ancora più significativo se si considera che, nonostante gli effetti depressivi del Covid sul canale della ristorazione, la domanda di prosecco per il 2021 crescerà ancora del 10%. Ecco che per riequilibrare la situazione ed evitare tensioni sui prezzi, il Consorzio ha deciso di rifornire la denominazione con uve di vigneti finora esclusi dalla DOC, in quanto piantati dopo il 31 luglio 2012. In gergo tecnico si parla di attingimento straordinario, che riguarderà solo il 2021, per un totale di 6.250 ettari piantati dopo il 31 luglio 2012. Quanta di questa superficie riguarderà la nostra regione? Da quando le superfici della DOC Prosecco sono bloccate, il rapporto tra i territori è del 18,5% al Friuli Venezia Giulia e la parte restante al Veneto. Anche per l'attingimento straordinario si è mantenuto questo criterio e conseguentemente dei 6.250 ettari a noi spettano 1.156. In Friuli Venezia Giulia ci sono circa 2.200 ettari di glera fuori dalla DOC Prosecco. Con quale criterio saranno individuati 1.156 utili per l'attingimento 2021? Su questo aspetto il dibattito nella scorsa settimana è stato molto acceso e alla fine è stato deciso che saranno ammessi prioritariamente i vigneti più vecchi, ammesso che abbiano i requisiti del disciplinare, quindi partendo dagli impianti del 2013 in avanti fino al raggiungimento del plafond assegnato. Ciò significa che nella nostra regione si potranno rivendicare a prosecco le superfici piantate entro il 31 luglio 2017, mentre tutto il resto sarà glera IGT. L'hanno ribattezzata la papaya nostrana o quella dei poveri e l'asimina triloba, pianta con radici americane che cresce e fa frutti anche qui da noi. Raffaele Testolin la coltiva in quel di Pagnacco e ci descrive le sue qualità e le sue virtù. Nessuno mi crede se dico che possiamo coltivare una papaya in Friuli. Ovviamente non parlo della papaya che tutti conoscono. Parlo invece dell'asimina triloba o pawpaw. È spontanea negli Stati Uniti orientali e il nome deriva da una tribù che viveva lungo le rive del Mississippi, dove l'asimina cresce spontaneamente. La potremmo definire la papaya dei poveri che vivono in ambienti freddi. Resiste bene d'inverno. Personalmente la coltivo da alcuni anni a Pagnacco in un orto esposto ai venti e non è ancora morta, anzi sta benissimo. Fa dei bellissimi frutti a fine settembre del peso di 200 grammi, ricchi di una polpa color crema dolce e aromatica che sembra uno yogurt addensato. Si mangia con un cucchiaio. I frutti deperiscono facilmente, appena arrivano a maturità e se si aspetta un po' troppo cadono, per cui bisogna stare molto attenti e raccoglierli al momento giusto. La pianta è molto produttiva. Se poi si sceglie una varietà autocompatibile, ci si toglie ogni pensiero per quanto riguarda l'impollinazione e una pianta da sola e isolata in giardino produce frutti regolarmente. Resta da dire, per la gioia di chi vuole che le piante da frutto crescano da sole, che non ha bisogno di essere potata, non ha patogeni o parassiti, praticamente si pianta. E a partire dal terzo anno l'unica cosa da fare è raccogliere i frutti e stupire gli amici. La potrebbero coltivare in giardino anche gli avvocati e i commercialisti. Meglio di così. In molti da tempo ci chiedono uno spazio dedicato al magico mondo delle api. Abbiamo trovato come collaboratore una vecchia conoscenza di vita nei campi, Moreno Greatti, apicoltore da sempre, laurea ovviamente in apicoltura con il professor Frilli, per 20 anni responsabile del laboratorio apistico regionale. Per 24 anni è stato anche consigliere del Consorzio Apicoltori della provincia di Udine su mandato della regione. Moreno è stato anche ricercatore apistico nel settore delle malattie delle api, sulla flora apistica e gli inquinanti di vario genere, attività che gli hanno riconosciuto una targa di merito delle principali organizzazioni apistiche regionali. Moreno, qual è il viaggio che ci propone in questo mondo? Inizieremo con la storia, per sapere un po' anche il rapporto che da sempre l'uomo ha avuto con le api, poi la collocazione sistematica, la società delle api, come sono fatte, parleremo poi della regina, dell'ape operaia e del fuco. Altra cosa importante di cui parleremo è il linguaggio delle api, un argomento molto molto interessante che è valso il premio Nobel a Carl von Frisch. In seguito parleremo brevemente dell'allevamento delle api, cioè dove vengono allevate le api e come si produce il miele. Poi parleremo della sciamatura, perché forse è il fenomeno più eclatante del mondo delle api, quelli che tutti conoscono, quelli che tutti vedono. E poi parleremo delle materie prime, cioè dove le api si approvvigionano per vivere. Quindi parleremo delle sostanze zuccherine, nettare e melata, del polline e dell'acqua. Spazio poi viene dato chiaramente ai prodotti dell'alveare, quindi al miele, come è fatto il miele e come lo ottengono gli apicoltori, di altri prodotti dell'alveare come il polline, la pappa reale, la propoli, la cera e il veleno delle api. Poi parleremo del rapporto api e fiori e quindi dell'impollinazione, azione fondamentale per la sopravvivenza di innumerevoli specie vegetali, del rapporto delle api con l'agricoltura proprio per la produzione di prodotti agricoli, delle api e della conservazione dell'ambiente e dell'importanza dell'ape come insetto test e infine delle malattie delle api. Le api, come tutti gli organismi viventi, hanno dei nemici e quindi parleremo anche di questo argomento. Inizia oggi per Vita nei Campi una nuova rubrica, una rubrica dedicata agli alberi, ai nostri amici alberi. È questo il titolo di un libro appena pubblicato dalla Libreria della Natura di Milano e scritto da tre professionisti della nostra regione. Questo libro ci condurrà a capire come dobbiamo comportarci verso questi figli della natura. È un libro che porta la firma di Roberto Barrocchi, Aldo Cavani e Giorgio Valvasone. E per parlare appunto di questo libro, oggi iniziamo con l'architetto Roberto Barrocchi, già direttore dell'Ispettorato delle Foreste. Come nasce il libro? Ma un giorno mi sono trovato col dottor Cavani, che fu mio vice e poi successore alla direzione dell'Ispettorato delle Foreste di Trieste, e con Giorgio Valvasone, un noto appassionato arboricoltore, a discutere di alberi ornamentali. Concludemmo che i nostri amici alberi sono spesso trattati male e allora decidemmo di scrivere questo libro, usando parole semplici e comprensibili anche a non esperti. In quali casi sono trattati male? Sono gli alberi solo della città? Ma gli alberi sono trattati diversamente a seconda che siano forestali, gli alberi dei boschi, agricoli, gli alberi da frutto e le specie a rapido crescimento come i pioppi, e ornamentali, gli alberi dei viali e dei giardini. Gli alberi ornamentali sono trattati spesso con poca competenza, sono ad esempio orrendamente capitozzati, rovinando nell'aspetto e provocando danni e rischi di infezioni. Gli alberi capitozzati sono poi frequentemente spollonati con altri danni estetici e alla loro vitalità. Attorno agli alberi si copre il terreno con pavimentazioni impermeabili, riducendo molto la possibilità delle radici di assorbire l'acqua necessaria. Gli alberi sono spesso piantati troppo vicini fra loro o ai muri, impedendo alle chiome di svilupparsi bene. I tronchi sono feriti da auto parcheggiate o da posa di materiali. Le radici sono strappate quando si scava troppo vicino per collocare condotte sotterranee e si potrebbe continuare. Quindi gli alberi ornamentali richiedono molte cure? No, vanno solo trattati con un po' di criterio. Ad esempio vanno potati poco e solo quando serve, quindi risparmiando onerose potature e ripotature. Vanno collocati a giuste distanze, il che non costa niente, ma fa risparmiare richiedendo di piantare meno alberi. Quindi trattarli bene non è difficile e alla fine fa risparmiare soldi. Voi li chiamate nel titolo nostri amici, lo sono davvero? Certamente. Perché ci danno molte buone cose, chiedendo solo un po' di rispetto per crescere sani. Ma di tutte le belle cose che ci regalano parleremo la prossima volta. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Dopo la pausa del mese di agosto riprendiamo i mercati con le contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine di venerdì scorso, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 25,40 e 25,60 euro al quintale IVA esclusa, l'orzo peso specifico 62,65 tra 21,20 e 21,60, il frumento tra 24 e 24,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 8,40 euro e il frumento di 6,80 euro al quintale. Negoziazioni discrete all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in aumento, l'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,70 e 1,80 euro al chilo, IVA esclusa, le zucchine tra 1,60 e 2,30, le melanzane tonde tra 0,90 e 1 euro, i cetrioli tra 1 e 1,50, i pomodori in grappolo tra 1,50 e 1,60, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,30 e 2 euro, la scalola riccia tra 2,80 e 3 euro, il radicchio rosso tondo tra 2,20 e 2,30, quello di Treviso da 2,40 a 2,50, le patate 0,55 e 0,85, le fragole extra tentine da 5,50 a 6 euro, le arance straniere da 1,40 a 1,50, le nettarine e le pesche da 1,50 a 2,50, i meloni tra 1,30 e 2,20, l'anguria da 0,35 a 0,55 e l'uva da 1,60 a 2,80. Nel settore della pesca l'attività prevalente in questo periodo è in laguna e i prezzi sono leggermente lievitati. Alla cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 25 a 35 euro al chilo IVA esclusa, le sogliole da 10 a 30, le ombrine da 12 a 32, le canocce da 5 a 13, le orate da 6 a 22, le passere da 13 a 16, i cefali da 2 a 8 e i ghiozzi da 6 a 8 euro il chilo. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnalano cenni di pesantezza con prezzi diversificati. I poli a terra vengono pagati tra 1 e 14 e 1,16 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,50 e 2,54, le faraone tra 2,47 e 2,57, i tacchini maschi tra 1,43 e 1,45, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 1,58 e 1,64 e le uova da allevamenti a terra oltre 73 grammi a 15,80 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Una debole depressione con aria fresca in quota mantiene una moderata instabilità pomeridiana sull'area alpina. Nei prossimi giorni tornerà a prevalere l'anticiclone con aria mite e secca in quota che determinerà tempo stabile almeno fino a domenica prossima. A partire da lunedì, dunque, il cielo rimarrà bello e soleggiato su tutta la regione, solo leggermente disturbato martedì pomeriggio per il passaggio di qualche velatura in quota. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà fino a mercoledì un leggero borino che manterrà un'atmosfera piuttosto secca. Le temperature avranno un'impronta tipicamente settembrina, fresco di primo mattino e più caldo nel pomeriggio, con valori minimi in pianura attorno ai 12-15 gradi e massime sui 28-30 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno sui 17-20 gradi, mentre le massime si avvicineranno ai valori della pianura. In montagna lo zero termico andrà progressivamente rialzandosi dagli attuali 3.200 metri fino ai 3.700 metri circa, con valori medi tra gli 8 e i 12 gradi a 2.000 metri. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: a vos tanis e marciulinis e son lis mior dialinis, ovvero le migliori galline sono quelle nate in agosto o in marzo. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.